Capitolo 13. Decisione. Agosto 1949. Lo attesi fuori dell'ospedale, appoggiata al muretto di fronte all'ingresso. Sotto di me, la strada di Pokfulum era animata di tanto in tanto da un autobus rosso o da una macchina. Il mare era calmo, luminoso d'argento dopo il calore del giorno. Già la flotta dei pescherecci si era portata al largo e le giunche sembravano spruzzare l'orizzonte di foglie argentee. Le isole montagnose cavalcavano il mare sotto un cielo al tramonto color d'albicocca. Chong Chau e Dumble, con le sue gobbe gemelle, Lantau con i suoi picchi frangiati di nuvole e le sue ombre violette, Lamma, simile a un cavaliere azzurro in groppa a un cavallo azzurro. Nel viale alberato che portava all'ospedale conversavano le gazze e Bulbul dalla cresta nera facevano fremere i cespugli, saltellando goffamente fra il fogliame. Una nube d'oro di libellule mi passò sopra il capo. Vidi la sua macchina spuntare dalla curva del viale. Si fermò accanto a me e salì. Ho portato dei panini e una bottiglietta di cognac. Potremmo avere fame. Passammo oltre Deepwater Bay, oltre Repulse Bay con il suo lido, oltre la casa di Robert e Nora Hung, dove, in quel momento, mia figlia May stava probabilmente cenando. La notte piombò su di noi, improvvisa, mentre parcheggiavamo la macchina sotto alcuni alberi al ciglio della strada. Poche stelle ritrose macchiarono il cielo sopra la collina e una sottile fetta di luna spuntò dietro alle sue spalle. Dobbiamo scendere qualche gradino per arrivare al mare, mi disse Mark. Preferisci cambiarti qui o sulla spiaggia? Io mi cambierò qui. Preferisco la spiaggia, risposi. Prese il mio cesto che conteneva il costume da bagno e un asciugamano e si gettò la sua borsa da bagno sulla spalla nuda. Camminava davanti a me ed io lo seguivo giù per i gradini di pietra che portavano alla spiaggia. Le pietre del sentiero erano ineguali e brillavano debolmente, simili a ossa disseccate. Posavo i piedi dove Mark aveva posato i suoi, lungo la stradicciola a gradini che serpeggiava ripida fra bambù, banani selvatici e aranci, fino alla piccola baia circondata, su entrambi i lati, da alte rocce friabili. Eccoci sulla spiaggia, annunciò Mark. Era bassa marea e le onde accarezzavano appena la sabbia, sbattendo continue e sommesse contro il fondo di una giunca nera attraccata sulla sinistra della baia. Mark trasse dalla sua borsa una coperta a strisce blu e bianche che distese sulla sabbia. È la mia coperta porta fortuna, spiegò. Mi segue ovunque vado e sono convinto che quando mi ci avvolgo dentro non mi può accadere nulla di male. Ci sdraiammo sulla coperta. Mangiamo un panino al prosciutto e beviamo un po' di cognac, propose Mark, ma dovremmo bere dalla bottiglia perché non ho portato bicchieri. Il cognac era fortissimo e bruciava la gola. È una vera porcheria, protestò Mark, tossendo. Sembra quella roba che fanno in Indonesia, una specie di whisky locale. Devono aver bevuto il mio courvoisier sostituendolo con questo orrendo miscuglio. Gli sorrisi. In quel momento non avevo fame di lui. Volevo soltanto che egli prendesse la mia vita fra le sue mani delicate per farne quello che avrebbe voluto. Così appoggiai la fronte alla sua spalla affinché lo comprendesse senza bisogno di parole. Svestiti mentre faccio un giro di ispezione, mi disse alzandosi, e si allontanò senza toccarmi, così come doveva essere. Allora mi cambiai e stavo allacciandomi le spalline del costume da bagno quando ritornò camminando silenziosamente sulla sabbia. Era buio e lo vidi soltanto quando mi sedette accanto e posò la mano sul mio braccio alzato, fermandomi con quel suo gesto tranquillo e spontaneo. Lo guardai senza paura. Tutti i suoi movimenti erano pacati, spontanei, derivanti da una sicurezza inconscia. Ogni suo atto si allacciava al seguente senza sforzo apparente. Quello che dovevamo fare doveva essere, non perché lo volessimo o avessimo voce in capitolo, ma perché era già in noi, profondo e oscuro, al di là del desiderio e della consapevolezza, al di là delle parole e del piacere. Amor mio, mi disse traendomi a sé, perdonami se sbaglio, non ho molta esperienza. Nemmeno io, perdonami, anche i nostri corpi devono imparare a conoscersi. E così egli mi prese, e poiché tutto questo era morto in me da tanti anni, lo obbedii in tutto, rinunciando a ogni mia volontà, sottomessa e soddisfatta di potermi annullare in lui. Mi fece anche un po' male, poiché da tanto tempo nessuno mi aveva toccata, ma non fu colpa sua. Meglio di me sapeva come prendermi, mi guidò ed io lo seguii perché era più forte di me e io volevo seguirlo. Poi ci dividemmo in silenzio e anziché affliggermi con parole o con espansioni, egli si limitò a coprirmi con la coperta e subito mi addormentai. Quando aprii gli occhi, Mark mi sedeva accanto, lo sguardo fisso sul mare buio, come se non si fosse mai allontanato. Una bassa nuvola errabonda ci sovrastava e grosse gocce di pioggia cominciavano a cadere come monete sulla sabbia. Corremmo a rifugiarci al riparo delle rocce. Non sarebbe buffo se Iddio, vestito da vecchio gentiluomo con una gran barba bianca, ci comparisse improvvisamente davanti? Dissi. Gli chiederemo gentilmente come sta e gli offriremo un po' del nostro terribile cognac, mi rispose Mark. Dopo essere rimasti per qualche istante sotto le rocce, ci accorgemmo che non ci avevano riparato affatto e che la pioggia ci bagnava allegramente. Ridendo come bambini e tenendoci per mano, tornammo alla nostra coperta. Poi entrai in mare. Quando muovevo le dita, l'acqua luccicava, frantumate migliaia di schegge luminose. Oh, guarda! Gridai. Com'è bello! Voglio nuotare! E nuotai a lungo, finché non fui stanca. Allora ritornai accanto a Mark sulla coperta per asciugarmi. Risalimmo il sentiero a gradini fino alla macchina e mi sciolsi i capelli bagnati per pettinarli. Non credevo che i tuoi capelli fossero così lunghi, osservò Mark. Sei piena di sorprese. Ci guardammo, ma subito distogliemmo lo sguardo, turbati dalla nuova conoscenza che avevamo l'uno dell'altra e anche da una profonda, nuova tristezza. Avevamo iniziato qualcosa di cui non potevamo prevedere la fine. Sapevamo che avremmo forse spigolato qualche gioia e certo molte sofferenze, ma il volere di Dio ci era sconosciuto. Mark preferiva non pensare al dolore che indubbiamente sarebbe stato nostro perché, diceva, era come chiamarlo. E così percorremmo nuovamente in silenzio la strada serpeggiante tra le colline accucciate, al pari di cani dormienti, e quando arrivammo all'ospedale, Mark accese i fari della macchina affinché non inciampassi nei vasi di margherite bianche che ornavano l'ingresso. Capitolo 14. Weekend a Macao, agosto 1949. Un sabato pomeriggio andai a Macao con Diana Kilton e Maya Wong. Maya doveva vedere una sua parente giunta da Shanghai e Diana alcuni amici inglesi. Io invece andavo a trovare Mark. Diana aveva preso Maya in simpatia a causa della sua delicata fragilità. Maya era mite e bella, tanto sottile che non si sarebbe mai detta madre di tre figli, con due enormi occhi neri, una pelle simile ad avorio rosa e il naso più delicato che si possa immaginare. Tu devi essere di Yangzhou, le dicevo per stuzzicarla. La gente di Yangzhou è graziosa, con ossa minute, lineamenti piccoli e grandi occhi frangiati da lunghe ciglia. Era tardo pomeriggio quando arrivammo a Macao, dopo 3 ore di traversata. La parente di Maya l'attendeva allo sbarco ed ella ci lasciò subito. Diana Kilton ed io vagabondammo un po' lungo la riva, lamentandoci per il caldo. Ora chiamerò un taxi, decise Diana. Ci vediamo stasera a bordo? Non so ancora, le risposi in tutta sincerità, poiché non nascondevo nulla a Diana e a Maya. Dipende da Mark. E così Diana salì sul taxi ed io rimasi sola. Camminai a lungo per le strade selciate e nell'oscurità che si infittiva rapidamente, rimandando di continuo il momento in cui avrei rivisto Mark. L'idea di dovermi trovare col mio amante al suo albergo mi turbava, proprio come Suzanne, mi dissi, e sentivo il guscio appena schiuso che andava riformandosi intorno al mio corpo. Così continuai a indugiare, passando da una strada all'altra, guardando gli articoli di pelle esposti nelle vetrine, le statuine di gesso dei santi, le chiese. Mi fermai davanti alla chiesa di San Paolo, ridotta al solo frontale, senza mura né interno. Avanzo di quinta teatrale puntellato sulla collina, con porte e finestre che lasciavano vedere il cielo della sera attraverso le loro orbite vuote. Voltandomi, per poco non mi scontrai in due uomini. Ci guardammo. I loro volti mi sembravano familiari. Ah, esclamarono, voi siete... e pronunciarono il nome di mio marito. Allora li riconobbi, erano due ufficiali del Kuomintang che avevo conosciuto a Chongqing molti anni prima, allorché io ero la giovane moglie di un ufficiale di brillante avvenire. Nei tempi lontani, in cui credevamo in ciò per cui stavamo combattendo e il mondo era tanto semplice. E ora, tutti e tre eravamo risorti dal passato. A Macao e a Hong Kong ci si incontra tutti, dissi ridendo. Ho rivisto tante conoscenze da esserne veramente sbalordita. Anche noi, mi risposero. Il vecchio sta ritirandosi dal palcoscenico. Le scene crollano intorno a noi e non siamo più che attori disoccupati in cerca di nuove parti. Siete qui anche voi per comprare un passaporto? Mi chiese uno degli ufficiali. No, perché? Ah, perché qui i passaporti sono meno cari che a Hong Kong e in qualsiasi altro posto. Dovreste procurarvene uno, mi consigliò l'altro. Non si sa mai quello che potrebbe accadere a Hong Kong. Ma io ho intenzione di ritornare in Cina. Ora sono un medico. Certo, se siete medico dovete ritornare. Il popolo ha bisogno di voi e la politica non ha importanza. Può darsi che anche noi si finisca col tornare. Dopotutto siamo cinesi e senza la Cina il mondo non può esistere. Aspettiamo che le cose si mettano un po' a posto e forse il nuovo governo saprà che farsene di noi. Sì, annuì l'altro, la Cina è sempre la Cina. Che importa la politica quando c'è un governo che si cura del benessere del popolo? Tuttavia, casomai le cose non si risolvessero come speriamo, noi intendiamo fornirci di passaporti, disse il primo. E io vi consiglio di fare lo stesso. Ci penserò, risposi cortesemente. Poi parlammo di amici comuni. Alcuni facevano parte del nuovo governo di Pechino, altri erano a Formosa e altri ancora in America, ognuno secondo il suo destino. Era ormai sera e Mark mi stava certamente aspettando. Mi incamminai verso la Van Hotel, un imponente caseggiato sulla strada principale. Vi erano due impiegate al banco dove chiesi il numero della stanza. La prima, portoghese, con un petto fiorente e una camicetta di pizzo. La seconda cinese con una carnagione liscia come miele. Risero sommessamente e quando le udii sussurrare il bell'inglese mi sentii come se mi avessero denudata in pieno atrio. Eppure sapevo che non intendevano giudicarmi, poiché a Macao c'è molta comprensione per questo genere di cose. Mark era sdraiato sul divano accanto alle finestre spalancate. Fuori, Macao scintillava quanto Hong Kong. E nel porto si accendevano le luci della flottiglia da pesca. Mark si stava facendo vento col suo ventaglio nero e mangiava meloni d'acqua, sputando nei semi nella sputacchiera d'ottone di cui ogni camera è provvista. Si alzò immediatamente e mi avvolse nel suo affascinante sorriso. Mangia un po' di melone, mi disse. L'ho appena comperato, è ottimo. Guardai i folti capelli rossicci e gli occhi di un profondo azzurro del mio bell'inglese, provando quello strano senso di malessere che ormai ben conoscevo. E Mark dovette capire quello che sentivo perché mi prese per mano e mi condusse fuori. Andiamo a giocare a Fantan, propose. Voglio vincere somme enormi. Così mi liberò da me stessa e salimmo nelle sale da gioco, all'ultimo piano dell'albergo. Intorno ai tavoli di Fantan, a Macao, è riunita la più straordinaria collezione di umanità che si possa immaginare, contadine, ammassi in camicette bianche e lindi pantaloni neri, dalle lunghe trecce ondeggianti sulla schiena al pari di molli serpenti. Coolies dagli strani morbidi cappelli e dai piedi nudi infilati in pantofole, ricchi giovanotti con cravatte sgargianti, occhiali luccicanti e capelli e denti splendenti, impiegati e ladri, banchieri e mezzani, concubine e serve, funzionari, grandi e piccoli, pirati delle giunche e poliziotti in vacanza. Marco ed io eravamo allegri di quella gaiezza incontrollabile che ci prende quando siamo insieme. Puntammo piccole somme su di un lato dei quadrati disegnati sul tavolo. Il croupier aveva dinanzi a sé un mucchietto di bottoni di plastica bianca e ne toglieva un po' alla volta con un bastone finché ne rimanevano pochi che, contati, davano il numero vincente. Il direttore dell'albergo venne a ossequiarci rispettosamente. Era mezzo portoghese, stringeva fra i denti un grosso sigaro e sfoggiava un'enorme spilla d'oro nella vistosa cravatta a disegni di margherite. Quando venne a sapere che ero medico, volle stringermi nuovamente la mano. «Vanno bene gli affari?» mi chiese. «Oh, io non ho clientela privata». Male, malissimo, fareste molto denaro. Le donne che si dedicano alla medicina fanno presto a far carriera. Vedete, agli uomini non piace che le loro donne vengano visitate da uomini. Venite a Macao, vi posso prestare tutto il denaro che vi occorre. 40.000? 50.000? Cercai di interromperlo, ma non me lo permise. Macao è piena di gente ricca. Tutti i ricchi sono venuti qui per mettersi al sicuro e hanno tanti bambini. Anche i poveri come me ne hanno. Guardate un po' mia moglie. E fu scosso da violenti scoppi di risa che fecero schizzare fuori la sgargiante cravatta come una fiocina da una baleniera. Soltanto allora notammo la moglie, piccola, enorme nella sua gravidanza, che appoggiava il ventre rigonfio al tavolo del fantan per riposarsi. Mi sorrise. Mi dà calci tali che devo dargli qualche schiaffetto per farlo stare fermo. Ci confidò nella sua ricca parlata portoghese. Il direttore aveva preso Mark in grande simpatia, poiché la sua gentilezza aveva un fascino che conquistava tutti a prima vista. Non senza difficoltà riuscimmo finalmente a sfuggirgli e cenammo nel ristorante cinese dell'albergo a pian terreno. Scorsi a un tavolo i due ufficiali del Kuomintang, ma questa volta non dettero segno di avermi riconosciuta, perché non sarebbe stato corretto. Mark vide alcuni conoscenti stranieri che integravano la loro educazione turistica mangiando un piatto tipicamente cinese e si trattenne a stento dal chiamarli. «Mi piace tanto farmi vedere con te», mi spiegò. «Vorrei che tutti i miei amici si chiedessero chi sarà mai la bella cinese con cui abbiamo visto Mark Elliot?» «Euroasiatica, non cinese», lo corressi. A me sembri completamente cinese. Vivo qui da 15 anni e se tu stessa non mi avessi detto che eri euroasiatica non l'avrei mai creduto. Anche tu nutri pregiudizi sul sangue misto, vero? Dissi amaramente. No, amor mio, mi rispose con un certo calore. Non devi assolutamente avere il complesso di inferiorità che hanno molti euroasiatici. Tu vuoi essere cinese e ti sei allenata a essere tanto orientale che occidentale. Hai una duplice mentalità e io ti invidio il modo con cui sai passare da un mondo all'altro, diventando tante persone diverse. C'è più ricchezza nella tua vita di quanto tu non creda, più di quanto ne possediamo noi, povera gente appartenente ad un unico mondo. Ma è terribile essere due o più persone insieme, mi ribellai. È schizofrenia. Ah, come vorrei essere te, esclamò Mark. E quanta pena mi fanno quelli che non hanno la gioia di conoscerti e di amarti. Non potevo comprendere né il suo desiderio di essere me, né quello di essere visto in mia compagnia, ma non gli chiesi di più, poiché ciò faceva parte di quel suo io che non potevo interrogare e che dovevo fingere di non conoscere. Dopo cena, passeggiammo per le strade rumorose, piene di folla gioconda. Sedemmo a riposare accanto alla fontana della Praia Grande e Mark fu gaio e loquace, raccontandomi un monte di sciocchezze divertenti e facendo vento a entrambi col suo ventaglio nero. A un tratto si alzò. «Vieni, amor mio», mi disse. «Car, tu me fais drôle. coutume, Fedrolo, sì, risposi. Mano nella mano, ci avviamo verso l'albergo, leggendo le insegne dei negozi dipinte a grandi lettere nere e a caratteri cinesi. Quinquilaria, disse Mark. Che bellezza essere proprietari di una quinquilaria anziché di una semplice drogheria. Comperammo un pacchetto di sigarette da una vecchia cantonese sdentata. Il suo viso era rugoso e scavato dagli anni e gli occhi avevano quello sguardo lucido da passero, proprio dei vecchi che dormono male. Ora faceva più fresco e le stelle si disintegravano in polvere lucente nel cielo. I galli cantavano sonnacchiosi, svegliandosi a vicenda per poi riaddormentarsi. Salimmo alla stanza di Mark in ascensore. Fai prima il bagno tu, gli dissi. Io lo farò dopo. Ma era già da qualche minuto nella stanza da bagno con la porta aperta e non sentivo scorrere l'acqua. Che stai facendo? Gli gridai. Vieni a vedere, mi rispose. Lo trovai chino sulla vasca con una spugna in mano. Ci sono tante formiche, spiegò, e non me la sento di farle tutte annegare. Allora cerco di raccoglierle con la spugna e di posarle sul pavimento perché con le mani è facile ucciderle. E così ci mettemmo entrambi al lavoro e salvammo quante più vite ci fu possibile. Poi, avvolti nei sarong che Mark aveva comperati, ci sdraiammo sul letto. Il mio aveva un bel disegno a farfalle e mi guardai nello specchio con un certo compiacimento. Mi sento quasi bella con questo sarong, osservai. Mark mi sciolse i lunghi capelli diritti, soppesandoli e accarezzandoli. Ho sempre sognato una donna con lunghi capelli neri, disse. Cercai invano di gettargli le braccia al collo. L'antico terrore che mi aveva mantenuta intoccabile per tanto tempo mi attanagliava nuovamente ed egli lo capì, nonostante la mia forzata gaiezza, poiché mi conosceva meglio di quanto mi conoscessi io. Mi conosceva anima e corpo e fra noi non ci fu mai incomprensione alcuna. Mi tenne dolcemente tra le braccia, citando brani del Johnson, di Boswell, e poi mi narrò buffi aneddoti giornalistici, facendomi ridere finché a metà soffocata, posai la testa sulla sua spalla e mi addormentai di colpo come un bambino. Al mio risveglio, il delicato mattino, fresco e rosato, si alzava sul porto per giungere fino a noi attraverso il cielo. Mark aprì gli occhi un istante dopo e ci guardammo. Amor mio, quante volte ho sognato di avere la tua testa accanto alla mia sullo stesso guanciale, esclamò. Hai rubato questa frase a una poesia cinese, ribattei, e inoltre io non faccio mai uso di guanciale. Avendo dormito fra le sue braccia, la mia folle paura era scomparsa e lo desideravo terribilmente. Se lo vuoi, puoi prendermi ora, gli dissi, anch'io ti voglio. Sei proprio sicura? Mi chiese. Non devi mai fare nulla soltanto per compiacermi. Oh, sì, ne sono sicura, risposi. Ti desidero tanto. E così le sue mani presero ad accarezzarmi e la sua bocca fu sulla mia. Dapprima lieve e gentile, poi avida e spietata, fino a farmi gemere. Allora sfece il mio sarong e fui sua. E questa volta il piacere fu immenso, quale non avevo mai provato in vita mia. Per l'intera durata della visita alla fabbrica di fuochi artificiali con Diana Kilton e Maya, e poi alla grotta di Camoens e sulla via del ritorno, dove ci fermammo a comperare acquavite e bols, e ancora sul battello che ci riportava a Hong Kong, io fui tra le braccia di Mark, estatica e sognante, fremente di delizia in ogni fibra del corpo. Da quel giorno incominciai, credo, ad avere quello sguardo astratto e lontano che può sembrare di stupidità o di beatitudine o di entrambe le cose insieme. Mentre l'acqua ribolliva nella scia del battello e Macao scompariva in lontananza, mi rivedevo allungata accanto a Mark, sfinita di desiderio soddisfatto. Aprendo gli occhi, l'avevo scoperto intento a scrutarmi nella luce del mattino per studiare sul mio viso inerme quello che poteva fare di me. Attento era il suo sguardo e sapienti e tenere le sue mani. Che meraviglioso amante sei, avevo esclamato. Sono davvero una donna fortunata. Lui aveva riso e la nota di piacere nella sua voce mi aveva intenerita. Amor mio, non credo che tu possa essere buon giudice in materia, mi aveva risposto. Io avevo ribattuto con dignità, poiché mi vergognavo di apparirgli inesperta. Una persona sensibile può conoscere molte cose anche senza averle provate. Non uscire di casa significa conoscere il mondo degli uomini. Io so che sei meraviglioso. Taoista, aveva detto Mark, strofinandomi il naso con un dito. Sei davvero una personcina sentenziosa. Sapessi quante cose ti vorrei dire, quanti pensieri, quanti progetti mi girano senza posa per il capo. Ah, non voglio sentir nulla, l'avevo interrotto, distogliendo bruscamente il viso e sentendomi d'un tratto lontana da lui. Sapevo quello che avrebbe voluto dirmi, ma non vi ero ancora preparata. Sul battello, Maya mi pose le mani sulle spalle e mi scrutò in viso. Sei innamorata, disse con decisione, e mi lasciò sola. Cercai Diana, che stava leggendo The Home Companion. Essendo inglese, avrebbe potuto comprendere la mentalità di un inglese e dirmi se avevo ben capito. Diana, le dissi, credo che Mark voglia chiedermi di sposarlo. Ne dubito, te lo ha detto? Non ancora, ma ne ho la sensazione. Le sensazioni ingannano facilmente, mi rispose continuando a leggere la sua rivista. C'è un certo che di stranamente misterioso in lui, sembra un bambino con un grande segreto. Non l'hai notato stamattina quando è venuto a salutarci alla partenza? Ho notato soltanto che i vostri sguardi non facevano che cercarsi e che eravate come in trance e non credo che tu abbia dormito nella tua cabina questa notte. Anche se mi hai svegliato presto per andare alla fabbrica di fuochi artificiali, ma Mark non ti può sposare molto facilmente. È già sposato. Lo so, ma vedi, né io né lui vogliamo soltanto un'avventura. Che faremo ora? Che accadrà?